6. Ascolta e controlla. La mamma e il papà si preparano ad uscire con la loro bambina di pochi mesi. Sono invitati al matrimonio di Alessandro. Mentre la mamma si veste, il papà sta con la bambina. Hanno paura di dimenticare qualcosa. Il papà si avvicina con la macchina all'ingresso e trova un posto per parcheggiare. La mamma porta in macchina la bambina e una borsa piena di giochi per la bimba. Prima di partire, la mamma sale al primo piano per prendere la giacca perché il matrimonio è all'aperto. In questo momento si avvicinano i signori bianchi. Parlano con la mamma e il papà e sono molto contenti di vedere la bimba.